Vatos, vatos. Bring on your beggars, you hungry, what you gonna hear? Baby, can't show me that you can. Baby, can't show me that you can. Baby, can't show me that you can. Baby, can't show me that you can. Bring on your beggars, you won't believe what you gonna hear. .6, benvenuti alla 58esima puntata di Radio BAM. Io sono Franz, questa è la trasmissione curata dalla fanzine BAM Magazine che tratta il meglio del rock and roll underground, www.bam-magazine.it o myspace.com/BAM Magazine, tutto attaccato. Abbiamo iniziato un po' in ritardo questa settimana, ma il mio co-conduttore Cischi questa sera è ancora più in ritardo di me. Vabbè, si farà vivo prima o poi, noi intanto ci divertiamo anche senza di lui. Settimana scorsa è stata una puntata storica, la 57esima di Radio Bumper, che abbiamo avuto qui con noi e ci ha suonato anche un paio di pezzi acustici, una leggenda del power pop, ovvero Paul Collins. Trovate la puntata scaricabile al solito sul nostro sito, trovate anche un video su YouTube cercando Radio BAM e Paul Collins. Questa sera avremo degli altri ospiti provenienti questa volta dalle terre del nord, dalla Norvegia. Loro sono i Cheaters e suonano stasera al Lio Bar di Brescia e saranno qui ospiti con noi fra poco, e proprio con loro iniziamo. Loro sono i Cheaters. Surprise! bow bow low, oh bow bow bow bow bow bow low. .6 Radio Onda d'Urto, questa è Radio BAM, io sono Franz, probabilmente in questo momento il DJ più bagnato della storia, perché mi sono appena rovesciato mentre venivo qua in macchina una birra mentre guidavo. Ragazzi, non bevete mentre guidate, perché altrimenti fate la mia stessa fine, e spero vi siate in qualche modo bagnati anche voi con quello, col popò di rock and roll e garage underground che siamo andati a sentirci fino adesso. Questi erano i No Bunny con Mess, questo era No Bunny con Mess Me Up. Per chi non lo conoscesse, è tale tizio, non so il suo nome, che si traveste, che indossa una divisa, una maschera da coniglio, e insomma fa abbastanza lo stupido sul palco, ma ha fatto un ottimo disco, che di cui adesso non mi ricordo il titolo, ma da cui è tratto questo pezzo Mess Me Up. Prima di loro, prima di lui, i Box Elders con Stay, nuovo gruppo su Goner che verrà a farci visita a novembre, e più precisamente l'8 novembre nell'unica data italiana del Davis Den Pub di Sasso Maggiore Terme. Ottimo gruppo americano che mischia un po' garage, folk, un po' di melodia inglese, insomma ottimo disco su Goner Records, Box Elders. Prima di loro i Mannequins con un nuovo 7 pollici intitolato The Start For Me, e appunto il pezzo che abbiamo sentito è la side intitolato The Start For Me, edito dalla Plastic Idol Records. Non so quando questo pezzo è stato registrato, ma a giudicare dai suoni credo non prima delle ultime loro cose, visto che era abbastanza lo-fi. E abbiamo iniziato con i Cheaters da Oslo, Norvegia, che saranno con noi fra pochissimo, almeno così spero, se hanno finito di mangiare o fare i suoni qualche al Dio Bar di Brescia. Loro suoneranno stasera al Dio Bar di Brescia, quindi presentatevi se non sapete cosa fare stasera, ma anche se sapete cosa fare. Zona Stazione, l'ingresso è gratuito, suoneranno intorno alle 11 o giù di lì. Sempre per quanto riguarda i concerti di questa settimana, non posso che segnalarvi appunto il tour dei Cheaters stasera al Dio Bar di Brescia, domani allo Stube di Trento, giovedì a Montevarchi al Moz, venerdì a Brescia in quel del Surfers Den per il Lice Club, sabato invece saranno all'Officina 49 di Cesena, e l'11 concluderanno il loro nuovo tour italiano al Davis Den Pub di Sasso Maggiore Terme. E questo è quanto. Mentre invece per voi bresciani che volete rimanere in zona, questo venerdì, ovvero il 9, c'è un ottimo gruppo garage punk, ovvero i Rippers dalla Sardegna, che non passano spesso da noi, suoneranno in quel di Ospitaletto alla Terrazza, e proprio i Rippers andiamo a sentirci con un brano tratto dal loro secondo album edito dalla Voodoo Rhythm, dalla Screaming Apple. Loro sono i Rippers dalla Sardegna, venerdì alla Terrazza Live di Ospitaletto. 99.6 di Radio Onda d'Urto, questa era Kepi Guli e da solo che ero pochi minuti fa, adesso qua in studio probabilmente non siamo mai stati così affollati, ci è venuto a trovare Simone di Punk Rock City e appunto è stato accolto con Kepi Guli. E Simone, vuoi raccontarci quando Kepi Guli suonerà a Brescia? Non se lo ricorda, te lo dico io allora. Il 16 ottobre, giusto? 16 ottobre, ok. Dove? Dove saranno al Latte Più di via Di Vittorio, di via Di Vittorio a Brescia, e suoneranno con loro i Dopamins e i Rico Bellis, prima data imperdibile assolutamente. Perfetto, prima di loro, prima di Kepi Guli, ovvero un'anteprima dal nuovo album che si intitola Life Sentence, mentre noi siamo andati a sentirci Fortune Teller. Prima di loro erano Tools con Still 16, ovvero il nuovo gruppo del cantante dei Fevers, un 7 pollici praticamente introvabile che mi è stato regalato da Brian dalla California, grazie Brian per avercelo donato. Prima di loro i Rippers dalla Sardegna con I Will Treat You Right, e i Reapers, ve lo ricordo, suoneranno il 9, ovvero questo venerdì, a Ospitaletto alla Terrazza Live. Ma perché tutta questa gente è qui a farmi caldo in questo minuscolo studio di radio andato su 99.6? Perché abbiamo... Vabbè, in effetti possiamo mandare fuori qualcuno, perché qua iniziamo a essere in troppi. Abbiamo i Cheaters. Esatto, ragazzi. Good morning, guys. Good evening. Oh, thank you. Good evening. Anche Cischi è arrivato, finalmente, in ritardo. Cischi, cosa è successo? Allora, finché non mi procuri un'auto blu che mi permette di arrivare qui in tempo, Franz, abituati al fatto che arriverò in ritardo ogni tanto. Hai sentito la trasmissione finora? Almeno mentre venivi qua in A4 l'hai sentita? Allora, Geppo non è stato in grado di sintonizzarsi sulla frequenza, per cui ricordala, perché c'è tanta gente che non lo sa là fuori. 99.6. Ricordiamolo. Ma tra l'altro, cioè, chi l'ascolta l'ha già trovata, quindi è inutile ricordarla. Questo particolare mi era sfuggito, e hai ragione. Adesso mi vedi con occhi nuovi, forse più intelligente di quello che mi credevi. Oltre che bello, adesso sei anche intelligente. Bravissimo, e bagnato, come e vedi. Bagnato. Non bevete al volante come ho fatto io. Ma abbiamo qua i Cheaters e dedichiamo a loro la serata. So, guys, you are here, you are on the newspaper you are reading right now, ovvero il giornale di Brescia. Yeah. It's not your first time in Italy, right? No, it's our third time, I think. We've been there... three or four times. I don't remember now. So you are from Oslo, Norway? We're from Oslo, yeah. Is it cold now there? It's about 0 degrees, so okay. You like coming not to bad, Italy. Not bad anyway. Nah, no. Okay, you can go walk. Little bit of snow. Yeah. So are you happy to be here on so-so? Yeah, yeah. We love Italian women and food and everything, so of course we're happy. Italian women? Yeah, yeah, yeah. But you know that the dream for every Italian man is a Scandinavian girl. Yeah, they don't know what they're talking about. Cause well, listen. You know that there is this say in Italy, I don't know where it comes from, but normally people that goes to Scandinavia say that the Norwegian girls are kind of easy. Yeah, they are. That's what's so boring, you know? We come to Italy and you have to pass the brother before you can... Allora, yeah. I translate a little bit, yeah, because yeah, there yeah. is no people listening. Translate. In. Okay, translate. Okay. Allora, traduco, abbiamo qui con noi i Cheaters da Oslo, Norvegia, ovvero la Scandinavia. Sono per la quarta o quinta volta, o terza o quarta, insomma, non si ricordano nemmeno loro, in Italia. Insomma, hanno fatto diversi tour europei, vengono appunto da Oslo, fanno Garage 60s un po' psichedelico, se possiamo definirlo così, ispirato punk, comunque ai 60s, punk anche, esatto, insomma, un po' tutto quello che, di cui questa trasmissione parla. E che altro? Si esibiranno stasera al Lio Bar di Brescia verso le 11. Sono in tournée italiane, iniziano proprio oggi. Sono andato a prenderli, anzi mio fratello, ringrazio Bruno, è andato a prenderli al magico aeroporto di Orio al Serio. Si sono fatti una bella pennichella, ma stasera sono pronti qua, carichi, a partecipare con voi alla serata del Lio Bar. Li abbiamo già sentiti settimana scorsa con It's Alright, li abbiamo sentiti oggi durante Barra Onda d'Urto condotto da Jean-Luc Stott, li abbiamo sentiti prima con I Found Love, e adesso ce li andiamo a sentire con un altro pezzo intitolato Amsterdam. Why you sang a song about Amsterdam? What there is in Amsterdam that... Well, we played in the Netherlands for many times and... Yeah, we got to know the Netherlands and... yeah, and the good things about the Netherlands. The song is about they don't give a fuck. Okay. About anything, yeah. You sleep do on whatever the floor. You want. Okay, yeah. Great. So Amsterdam, the Cheaters. Yeah. Great. If it starts. Sounds con Broken Things e prima i Cheaters con Amsterdam. Riesco a leggere la tua scrittura, Franz. Non è male, bravo. Questa cosa. Una serata che si promette scoppiettante dopo il seratone di martedì scorso con i Beat. Franz? Sei contento? Sei proud? Quando avrai una trasmissione tutta tua. Are you proud? I'm very proud. Vai avanti tu adesso. Allora, dopo questo intervento di Cischi, che adesso cacceremo subito fuori, probabilmente dallo studio, arriva un altro. Sappiamo che non avrai mai un futuro radiofonico. Ecco che anche che ho il Jerry Scotti della Bergamasca, sembra. Vabbè, comunque, 99.6 di Radio Andadotto, abbiamo qui con noi Cheaters che probabilmente non stanno capendo una fava di quello che stiamo dicendo e probabilmente neanche voi che state ascoltando da chissà dove. Ma neanche noi, questo è il problema. So, guys, we have listened to Amsterdam and the songs taken from your first full length Yeah. Which is called The Cheaters. And this is out from Big Dipper Records. Which label is this? It's a Norwegian indie label, which is pretty big in Norway, and okay. But not so famous in Europe. So you are pretty big in Norway. Well, pretty big. We don't make enough money, okay. If that's what you're asking. Me too, me too. Yeah, so everyone's problem. Yeah. Okay. Allora, i Cheaters hanno inciso tutti i pezzi che abbiamo sentito dei Cheaters da diverse puntate a questa parte. Sono tratti dal loro primo album, che è appunto l'album omonimo The Cheaters, tratto da, no, edito dalla Big Dipper Records, www.bigdipperrecords.com, se volete avere qualche informazione e ordinarlo, oppure venite a vedere stasera l'Io Bar di Brescia alle 11, zona stazione, per comprarne uno. Costa solo how much you sell the CDs for, if you can say 10 euros for 10 the euros. Italians, yeah, for the, only for the Italians, only for the Italians, for the Spanish people 15, French 12, Swedish 200, yeah. German 300, yeah. Allora, diceva che hanno edito questo CD in Norvegia per un'etichetta indie abbastanza grossa, appunto la Big Dipper, che ha tra l'altro, anche se non mi sbaglio, un negozio di dischi in centro a Oslo, almeno il più bel negozio di dischi di Oslo. Dice appunto che è un'etichetta abbastanza grossa, loro sono abbastanza conosciuti in patria, ma questo non gli basta per fare abbastanza soldi per sopravvivere. Che è quello un po' che pensiamo tutti noi, anche di tutto quello che facciamo, tranne qua Cischi, che invece faccio un sacco di soldi lavorando per Sky e tutta quella monnezza lì. Tanti, tanti soldi, caro. E che altro? So, have you been many times in tour in Europe, right? Yeah, we've been 4 times, I think. Yeah. Okay. Which country is the best? Italy. Yeah, of course. The food, you know. It's you know, the food. Nothing beats what it. What do you like from the food from Italy? Well, of course, all the pasta and and the wine. It tastes much. The Italian wine tastes much better than in Norway. Okay. Than the Italian wine in Norway. Okay. I don't know why, but even the Italian cheese and stuff like that. Italian cheese, you pay maybe because it 50 euros less, because a kilo. It costs less. It tastes more better because it costs less. Yeah. Maybe. Probably. And it's always your friend who made the ham and made the cheese. No, <it's not> Only on the Good Father movies that. Yeah, okay, okay. But well, your brother said so before. Okay, but yeah, but my brother say a lot of things. Yeah, but yeah, yeah. Gli ho chiesto ovviamente quante volte sono state in tour in Europa, e 2 o 3 volte, ma dicono ovviamente che il paese migliore è l'Italia. Perché? Perché abbiamo dell'ottimo cibo, ovviamente la pasta, ovviamente il vino, e dice che il nostro vino è molto meglio del vino italiano in Norvegia. Chissà perché, Cischi. Perché la Norvegia climaticamente non dà molto rispetto al vino, e portarlo là costa tanto. Per farti un'analisi costi, ma insomma, sarebbe un po' noiosa. Ok. So, are you guys working on a new full length? Or yeah, I think within 6 months a new full length is gonna come out. Okay. And hopefully it's gonna come out in Italy as well. Yeah. Looking for a record company, big one. A big one, and a really rich one, with yeah. lot of wine and lots of wine, and Parmigiano, Reggiano, yeah. That's have what you ever we found an Italian girl, as we were talking about before? It's easy for you guys, blonde and good looking. No, no, we always have to get past the brother, and that's. Oh yeah. And we're not so strong, so it's yeah. No, I don't believe you. It's who won't on you. Don't cheat me. Gli ho chiesto ovviamente se dei belli norvegiosoni, insomma qualcosa del genere, scandinavi come loro, biondi, occhi azzurri, hanno successo con le ragazze italiane, ma ovviamente non quanto Cischi qui presente, e mi hanno detto che comunque neanche loro riescono ad avere molto successo, il che non gli credo, visto che sono stato diverse volte in tour con loro e insomma ne hanno viste delle belle. Comunque, come ne vedrete voi delle belle stasera, presentandovi alle 11 all'Io Bar Brescia, zona stazione, loro sono i Cheaters. Guys, but we spoke about you and your girls and your food and whatever, but what do you sound like? I think we sound like a mix of 1966 with 77. Yeah? Yeah. So that's the easiest way to say it, but what are your inspiration bands? It's a lot of 60s stuff, which yeah. is very obvious, but also a lot of punk stuff. Yeah. We started the band with covering The Jam. Oh, and, The Jam. That's what we started with, and of course we like all the great punk bands. Yeah. So what about Finish That Beer listening to The Jam? Yeah, in the city. In the city, you yeah, want. Yeah, yeah. Let's see if we have 18 hour archives. I hope so. Allora, dicono che la loro ispirazione sono ovviamente suonando quella roba, un sacco di roba dai 60s, dagli anni 60, americani, inglesi e quant'altro, ma anche un sacco di roba punk 77, tra cui i Jam, e hanno richiesto una canzone, ovvero Jam in the City, un po' la loro hit, e stranamente noi ce l'abbiamo qui nei giganteschi archivi di Radio Onda d'Urto, 99.6, loro sono i Jam. Oslo al Bresciano Lio Bar, in Norvegia de Cheaters e Besconos stasera alle 22 nel locale di Via Togni. Zona stazione, ingresso libero. Alla 22, señoritas, the Cheaters, Norwegian pop sensation at Lio Bar. 60s power pop, e questa sì che è una meta presentazione, eh? Meta presentazione solo noi su Radio Onda d'Urto. Al 99.6 di Radio Onda d'Urto, sono le 21.51 in punto, siamo in diretta qui dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, Radio Bam, 58esima puntata. Io qua Franz, Cischi, il nostro corrispondente dalla Champions League, Geppo, Lisa, Andreas dei Cheaters, Oivin dei Cheaters, Thomas dei Cheaters, ho detto un po' tutto fuori, c'è un sacco di gente che li applaude e ci amiamo tutti, ci vogliamo tutti, tutti, abbiamo birre e non abbiamo paura di usarle. Non abbiamo paura di usarle. No. Hai visto Cischi, il nuovo film di Tarantino? Non l'ho ancora visto, ma soprattutto non ci sono tante birre in realtà. Ma no, il nostro inviato della Sardegna l'ha vista e adesso ce lo descriverà. Okay. Quindi Geppo, tu che stasera non ci sono partiti di Champions League, raccontaci, sei andato a vedere il film di Tarantino, sei appena tornato, cosa ne pensi? Fighissimo, in una parola sola, nel termine. Che parte ti è piaciuta di più? Che parte ti è piaciuta di più? Diciamo che mi sono piaciuti tutti i personaggi con le loro caratteristiche, ognuno tipo era caratterizzato. Il nazista. Tipo. Ci sono fighe nel film. Sì, due Ibrahimovic. Ibrahimovic. There are Norwegian famous players. Do you know any of them? Yeah. Jon Karev. Sorry? Jon Karev. And Jon Arne Riise, he plays you in Roma. Even know. Pronounce it right. Karev. No. Karev. That's you foreigners. Then Solskjaer. Solskjaer, yeah. Solskjaer, Manchester United, yeah. We say Solskjaer. Soskiar. Babyface Killer. And then Riese. Oh, yeah, Riese in Roma. Riese. Yeah. In Roma. Yeah, yeah, yeah. He's a big ass. Why? Why? Because yeah, he's dumb. He's dumb. He's dumb. I can't explain it, but... If you can compare the cheaters to one of the Norwegian players, which one you think is the best? Riese. Riese. Great. Roberto Baggio. No, Roberto Baggio. Okay. So... Guys, we don't have so much time. So, what someone that is in the cities, is in the streets of Brescia, should they should come to your show and show up and have fun? Why? What they should expect from your show? No, it's an explosive show. We're gonna kick their ass musically. Fuck them, yeah, idiots, fuck them, motherfuckers. Take their girls, everything. Yeah. What? No, no. What did I say now? What? Okay, allora. They don't understand. Yeah, exactly. So I have to translate everything. I can translate wrong anyway. Allora, hanno detto ovviamente che i giocatori italiani che giocano in Italia, norvegesi, sono Kerio, Care o qualcosa del genere, che giocava nella Roma, e adesso Riese. E se Riese è un grosso culo, a loro dire, che non so cosa voglia dire, ma credo che abbia un grosso culo, e poi gioca nella Roma, appunto, e quindi vabbè, tutto un dire. E si paragonano appunto a Riese per quanto riguarda giocatori norvegesi. E cosa si devono aspettare voi che siete tra le sale di Brescia e dovreste dirigervi adesso verso l'Io Bar in zona stazione? Beh, dovreste aspettarvi uno show esplosivo, vi spaccheranno il culo a loro dire, vi frutteranno le ragazze, credo. E quant'altro. I ragazzi soprattutto. Tu culo. Esatto, bene. Tanto questa trasmissione ormai sta degenerando. Domani, quando Jean-Luc sentirà la registrazione, probabilmente mi caccerà. Ma abbiamo ancora settimana prossima, quindi non perdetevi la 59esima puntata di Radio Bam, ospite d'eccezione Cischi, che non ha ancora capito che deve parlare nel microfono, tra l'altro. Detto questo, 21:55, dopo di noi Desert Caravan, la trasmissione sul... non me lo ricordo più, sullo Stoner Rock, scusate. Questa volta cerchiamo di finire puntuali così non gli rubiamo tempo. Guys, thank you so much for being here. Yeah, thank you for having us. Do you remember your shows of this week? Yeah, oh. It's Trento, Montevarci, Milano, Salso Maggiore. No, Cesena. Cesena, Salso Cesena Maggiore. E Salso Maggiore. Yeah. Ok, ripetiamo. Domani a Trento lo Stube, giovedì al Moz di Montevarchi, venerdì l'Ice Club at Surfers Den a Milano, sabato all'Officina 49 di Cesena e infine domenica a Davis Den Pub di Salso Maggiore, ingresso gratuito. www.myspace.com/cheaters Oslo per sentire i loro pezzi. Venite stasera al Lio Bar per comprare il loro CD The Cheaters, edito dalla bigdipperrecords.com, www.bam-magazine.it se volete sentirvi e mettere sul vostro iPod il podcast di queste stronzate che stiamo dicendo. Adesso chiamano i Cheaters perché devono andare a suonare al Lio Bar. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima con Radio Bam, sempre dalle 9 alle 10. Dopo di noi Desert Caravan, Stoner Rock e quant'altro. Vi salutiamo con un altro pezzo di Cheaters. What do you want to listen to from your own record? Let's listen to I Might Be Evil. Ok, perfetto, yeah. Loro sono i Cheaters. Cischi, concludi con una frase ad effetto. Speriamo sia figo come martedì scorso, ne siamo convinti, Frank. Cosa c'era martedì scorso? C'era un beat, Frank. Ah. Ti sei chiuso in bagno per mezz'ora prima dello show e sapessi con chi. Vabbè. Qua Franz, Cischi, i Cheaters. Thank you so much guys again. Yeah, thank you. Oivind, Thomas. What's the right spelling? Oivind? Oivind, ok. Yeah. Thomas, Andreas. Thank you so much. Ora al Lio Bar di Brescia. Questa è Radio Bam. Ciao. Ciao. Tonight. Yeah, you came, beat your brother. mio bene.